Voci di piccola impresa. Storie di eroi italiani di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa. Storie di eroi italiani. I racconti di oggi partono dalla capacità di reinventarsi, di dare nuovo respiro al marchio che, anche se riguarda aziende di dimensioni piccole e medie, ha bisogno di grandi slanci per saltare il fosso delle difficoltà. Iniziamo da Oliviero Gobbi, della ditta Valdostana Grivel. Agli albori della grande crisi, una scommessa, in controtendenza rispetto al momento che costringe gli imprenditori a delocalizzare anche in Cina, Oliviero Gobbi ha trovato una soluzione tutta italiana sull'onda del pensiero che ci sono alcune cose che in Cina non conviene fare. Nella mattinata di mercoledì 23 gennaio 2008, Gobbi di Courmayeur, proprietaria del marchio Grivel, leader mondiale nell'attrezzatura d'alpinismo, ha acquisito a Verrail, dalla multinazionale francese Rossignol, lo stabilimento da 7.000 metri quadrati specializzato nella produzione di bastoncini da sci, rinominandolo Ski Poles Verrailles SRL. Da Picozze e Ramponi, una svolta per l'attività che discende dal nonno Tony, guida alpina a Courmayeur. Io credo che il lavoro dell'imprenditore sia anche il saper leggere gli eventi, saper leggere i momenti, saper vedere le circostanze e soprattutto saper identificare delle opportunità che possono venire fuori. Nel nostro caso la storia parte da lontano, nel senso che parte da quella che è l'azienda storica di famiglia che si chiama Grivel, un'azienda di Courmayeur in Valle d'Aosta, un'azienda che esiste dal 1818 e che produce attrezzatura da montagna e da alpinismo ai piedi del Monte Bianco, che è quella che oggi andiamo a definire una multinazionale tascabile, cioè una piccola azienda che lavora in un settore molto di nicchia, che però, proprio perché il settore di nicchia, il mercato ha dei numeri, diciamo, tutto sommato piccoli, si è costretti a essere globali. Grivel è un'azienda che oggi vende in circa 35 paesi. Questa storia dell'azienda di famiglia si intreccia nel 2007 con un'altra storia, che è quella del gruppo Rossignol. Rossignol è un gruppo, diciamo, leader mondiale nel mondo dello sci, che esiste da tanti anni, che nel lontano 1982 aveva costruito in Valle d'Aosta, vicino ad Aosta, diciamo, una fabbrica per i bastoni da sci. Che cosa è successo? È successo che nel 2005 Rossignol è stata acquistata da una multinazionale americana che si chiama Quicksilver, che per intenderci produce attrezzatura da abbigliamento, soprattutto da spiaggia, da surf, da mare, con l'idea di diversificare acqua e neve. Hanno iniziato anche all'interno del gruppo Rossignol, che invece possedeva diverse fabbriche di sci, di scarponi, questa qui di bastoni in questione, hanno iniziato a cedere barra chiudere queste unità produttive, queste fabbriche che avevano in giro per il mondo. Quella dei bastoni rientrava in questa blacklist, diciamo, di cessione. Quando è entrato lei con l'idea? Quando è che ha stimolato la sua attenzione questa opportunità? Conoscevamo questa realtà, siamo stati poi avvicinati da una serie di si direbbe oggi stakeholders locali in Valle d'Aosta, perché noi siamo valdostani, perché noi lavoriamo con la Grivel, con l'azienda storica, nel settore della montagna, quindi in qualche modo siamo vicini, perché siamo metalmeccanici, perché siamo produttori, e quindi in qualche modo siamo stati visti come candidati reali, tra virgolette, per cercare di portare a casa questa impresa. Qual è questa idea di produrre localmente? Ci sono tante cose che in Italia vengono fatte in serie, e c'è stata anche la febbre della delocalizzazione. Lei che cosa invece ha pensato? Nel 2007 stiamo parlando di piena febbre di delocalizzazione, almeno per quanto riguarda il nostro settore dell'outdoor, della montagna. Cioè, tutti pensavano che la Cina fosse la risposta a tutti i problemi. Noi abbiamo pensato che le cose potessero essere un po' diverse. Perché? Perché esiste un problema di costo totale. Allora, è chiaro che la Cina sui costi della manodopera è imbattibile, nel senso che il costo di un operaio per noi è circa 20 euro all'ora, in Cina stiamo parlando di 4-5 euro all'ora, esagerando, forse anche meno, e quindi è chiaro che lì non c'è storia. Però per gestire una produzione in Cina esiste, cioè, se guardiamo i costi totali sono molto diversi, perché si tratta di poi avere qualcuno là che segue, o comunque se non c'è qualcuno là bisogna andare spesso a vedere, a controllare. Esistono dei costi di logistica molto diversi, perché i trasporti costano più cari, perché è più lontano, eccetera. E soprattutto, e questa forse è un po' la chiave anche per quello che è il nostro business, qui parliamo di bastoni da sci, quindi di sport invernale, essendo un prodotto molto stagionale e molto dipendente da quelle che sono le condizioni meteo, appunto, cioè se un inverno fa caldo, fa freddo, se c'è la neve, se non c'è la neve, quello che serve a un produttore è flessibilità, grande flessibilità, cosa che in Cina non è ottenibile, perché per avere i prodotti, diciamo, per mettere i prodotti in negozio in un inverno bisogna averli pronti, diciamo, entro settembre-ottobre, quindi appena prima di quell'inverno. Per avere un prodotto costruito in Cina, diciamo in Europa a ottobre, bisogna ordinarlo magari a febbraio-marzo, quando uno assolutamente non è in grado di sapere che tipo di inverno sarà. Comunque, al di là di tutto, per battere la Cina è necessaria grande automatizzazione, quindi noi abbiamo bisogno di non di persone che fanno il lavoro, noi abbiamo bisogno di persone che seguono delle macchine e le macchine fanno il lavoro. Quando è stato il momento in cui ci sono state delle difficoltà, un momento in cui lei ha iniziato a sicuramente a voler sviluppare la sua idea, e quali sono i primi ostacoli che ha avuto, anche magari anche dei timori personali per realizzarla? A livello personale le difficoltà dove sono state? Ma non sono state tanto in questo trend che comunque avevamo un po' anticipato e sicuramente si sta realizzando come da nostre previsioni. Il problema è che noi abbiamo iniziato quindi questa attività a inizio del 2008 e ci siamo trovati a fine 2008 una bella crisi mondiale che un pochino ha complicato le cose. Nonostante due ottimi inverni, ottimi a livello di quantità di neve, freddo, tenuta eccetera, il mercato un pochino si è ridotto. Che cosa l'ha aiutata ad avere coraggio di continuare a scommettere nonostante appunto questo tempo avverso? Ci ha aiutato comunque pensare che stavamo facendo una cosa giusta e quindi che nel medio periodo avremmo comunque avuto ragione. Su questo, avere comunque anche a livello di gruppo più attività, quindi quella dei bastoni ma anche quella di Grivel, che invece è stata in controtendenza, perché il mondo dell'alpinismo è andato bene l'anno scorso e sta andando molto bene anche quest'anno, quindi si parla di crescite a doppia cifra nonostante la crisi, anzi direi forse grazie alla crisi una mano aiuta l'altra. Ecco, anche il rapporto con la montagna e l'alpinismo insegna qualcosa? Sì, perché in montagna non si corre, si fa un passo dopo l'altro quando si è sicuri che il passo precedente è ben assestato. Quando uno si sente perso nel bosco, la cosa migliore da fare è salire più in alto, perché così si vede più lontano. Una svolta dolce per Daniele Ferrero, dell'azienda cioccolatiera Venchi, ex Cuba, arrivato a Cuneo dopo aver girato il mondo. Nato a Milano nel 1970, vive con la famiglia negli Stati Uniti, in Svizzera, in Francia e in Inghilterra e fa l'università a Cambridge. A 22 anni entra in McKinsey, ufficio a Londra e poi Zurigo, e anche un MBA a Fontainebleau. A 26 anni aveva però deciso di diventare un imprenditore con una passione, il cioccolato. Mi ero reso conto che avevo dentro di me una fortissima motivazione a fare l'imprenditore, ovvero uscire da una carriera più tipica. La motivazione era soprattutto dovuta a un fortissimo bisogno di libertà. Una volta deciso questo, il vero problema era: bene, adesso cosa fare? Bello da dire, ma poi bisogna trovare l'oggetto oppure il segmento, il mercato. La cosa che ho ritenuto più opportuna al tempo era parlare con imprenditori che conoscevo, voi come avete fatto, no? E il consiglio secondo me più fondato allora, e lo confermo dopo 12 anni, è stato quello di: guarda, se tu vuoi fare l'imprenditore devi scegliere un campo, qualcosa che ti appassiona in modo più che viscerale, totale, perché poi tante sono le difficoltà e tante sono le frustrazioni, che se tu non hai un fortissimo amore vero per quello che tu fai, poi soccombi. Mi resi conto che l'unica cosa che a me appassionava veramente era il cioccolato. E quindi nell'era internet, perché stiamo parlando dei fine anni 90, quindi tutta una serie di miei amici, colleghi, eccetera, si buttavano in imprese, della new economy, io feci qualcosa molto old e andai a cercare quindi un'attività nel mondo del cioccolato. Poi l'idea specifica, che era l'acquisizione di questa azienda nel cuneese, non fu mia, ma fu di all'epoca Rolando Polli, che era il capo della McKinsey per cui io lavoravo e che conosceva i prodotti, gli piacevano, li mangiava e non li trovava, e diceva: questo è un prodotto buono, non si trova, opportunità di business, no? A più B uguale C, e così fu identificata l'azienda, che era una micro azienda che faceva neanche 4.000 di lire, di vecchie lire di fatturato. Andammo e poi la comprammo dagli imprenditori, dalla famiglia che la possedeva. Ecco, passione prima di tutto, poi amici e consigli, e poi ci sono tanti altri ingredienti per fare questa ottima ricetta di un cioccolato buono. Però all'inizio quali sono sono stati i primi ostacoli, le difficoltà per realizzare questa impresa, perché non si fa appunto da un giorno all'altro? Secondo me l'ostacolo più grande è sempre quello del talento umano, del capitale umano, del vero talento. Cioè, alla fine le imprese sono fatte da persone. Più persone brave hai al tuo fianco, più facilmente fai impresa. È veramente molto vero e, diciamo, insormontabile quando tu sei piccolissimo. Cioè, secondo me c'è una barriera proprio, che adesso io stimerei nei 20 milioni di euro più o meno di fatturato, sotto la quale sei un po' in un circolo vizioso che, siccome sei piccolo, non riesci a strutturarti, siccome riesci a strutturarti rimani piccolo. Le due o tre persone che sono, diciamo, al centro dell'attività dell'impresa micro devono lavorare su n fronti e cercare di far tutto loro, no? Quante ore al giorno e quanti giorni alla settimana? No, ma è totalizzante, ovviamente, è totalizzante, quindi ore, non so, facciamo 70 ore, 80 ore a settimana in continuo, e spesso appunto i weekend facevi le attività commerciali, oppure banalmente rifacevi i conti della settimana che non riuscivi a chiudere. Però a parte le ore, la difficoltà sta nel quello che viene chiamato multitasking. Guardandosi intorno, quali sono state le difficoltà, diciamo, che derivavano dall'esterno, dagli altri, dalla rete che si aveva intorno a sé? Le difficoltà del sistema Italia le conosciamo tutti, io le riscontro comunque oggi, anche una dimensione, diciamo, sopra i 30 milioni di euro. Da un punto di vista della materia, del prodotto, hai un mercato globale, quindi noi compriamo il cacao da Sud America, e se non va bene Sud America lo compriamo dall'Africa, e il packaging lo compriamo dalla Cina, se non ci va bene andiamo in India, quindi abbiamo la possibilità di andare a cercare il prodotto, la materia, dovunque. Poi noi siamo molto, diciamo, locali e territoriali e piemontesi, quindi abbiamo un prodotto tipicamente, no, piemontese, quindi la nocciola è piemontese, il marrone, il miele è piemontese, però comunque nella consapevolezza che tutto questo hai un mercato globale. Invece quando vai a comprare i servizi di qualsiasi natura, essi siano finanziari, no, telematici, informatici, pubblica amministrazione, comunque un servizio, la difficoltà che trovi banalmente è che tutto quello che è un servizio sottoposto a concorrenza ti trovi bene, e dove non c'è concorrenza hai un servizio pessimo, banalmente. Quando io parlo di quello che riesco a fare a Cuneo in termini di velocità per fare uno stabilimento, piuttosto autorizzazioni, piuttosto che interlocuzione con l'amministrazione pubblica, la gente pensa che io sia in Svizzera, non che sia in Italia. Invece ci sono degli acceleratori che possono essere magari il network, gli amici o altri elementi. Quali sono quelli nella sua storia proprio che le sono venuti incontro e le hanno sorpresa? La cosa che mi ha sorpreso in modo positivo, e quindi mi sento di consigliarlo a tutti, è la forza di fare società. Soci che, diciamo, in modo indipendente, autonomo, si conoscono per motivi professionali e si stimano per questi motivi qua, e si mettono insieme con ruoli diversi, passivi, più attivi, operativi, meno operativi, è stata secondo me la cosa migliore alla fine, nei momenti di difficoltà, ma anche nei momenti buoni, no? Voci di piccola impresa, storie di eroi italiani per oggi si chiude qui. Tutte le puntate sono disponibili su internet www.radio24.it. Appuntamento al prossimo sabato con nuove storie e nuovi eroi. Un saluto da Anna Marino.